Sei sempre in fondo al cuor, mia vecchia Broadway. Sei stata il primo amor, mia vecchia Broadway. Illuminata come un mondo in Technicolor, baciata dai lampi di mille bagliori. Dov'è finito ormai, mia vecchia Broadway? Quel dolce lullaby che lui canta a lei. Un paradiso di emozioni in vista vision, ritorna a cantare le tue belle canzoni. Ti prego fammi riascoltare l'eco dei tuoi musical plays, quelle famose tue jazz bands, i Dixielands e i mille fox dei tuoi jukebox. Dov'è la gioventù, mia vecchia Broadway? Ricordi quando fu follie 36, addio bei sogni in cinerama, in cinema scope, mia cara Broadway, chissà più dove sei, romantica vecchia Broadway. Cinema Scope, mia cara Broadway, chissà più